universale dagli altri. Sì. Ma non è toccato esattamente con lui, che è quello che te l'ha detto, perché ha interferito nella tua vita privata. Cioè, non doveva permettersi di dire una cosa.